Il giorno seguente segnò un avvenimento nuovo a Longbourn. Il signor Collins fece la sua dichiarazione in piena regola. È risoluto a liquidare la faccenda senza perdere tempo, dato che il suo congedo durava soltanto fino al sabato successivo, e affatto libero da quel senso di sfiducia in se stesso che al momento buono avrebbe potuto diventare angoscioso, si accinse all'impresa con metodo, osservando tutte le regole che secondo lui facevano parte integrante del cerimoniale. Subito dopo la colazione, avendo trovate riunite la signora Bennet, Elizabeth e una delle figliole minori, si rivolse alla madre con queste parole. Mi sarà lecito sperare, signora, nei suoi buoni uffici presso la sua leggiadra figlia Elizabeth, quando nel corso di questa mattina io solleciterò l'onore di un colloquio privato con lei? Prima che Elizabeth avesse il tempo di far altro che avampar di sorpresa, la signora Bennet rispose senza indugio. Oddio, sì, certo, sono sicura che Lizzie sarà lietissima. Sono certa che non avrà nulla in contrario. Vieni, Kitty, ho bisogno che tu venga di sopra con me. E raccolto il lavoro, stava affrettandosi a lasciare la stanza quando Elisabetta esclamò: Oh, mamma cara, non vada, la prego di non andar via. Il signor Collins mi deve scusare. Egli non può aver nulla da dire a me che gli altri non debbano sentire. Vado via anch'io. No, no, Lizzie, non fare la sciocca. Desidero che tu rimanga dove sei. E poiché sembrava davvero che Elizabeth, stizzita e imbarazzata, stesse per scappar via, soggiunse. Lizzie, insisto perché tu rimanga ad ascoltare il signor Collins. Elizabeth non era tipo da opporsi a un'ingiunzione del genere, e quando dopo un minuto di riflessione si fu resa conto che sarebbe stato saggio venire in chiaro della cosa al più presto e nel modo più tranquillo possibile, si rimise a sedere, cercando di nascondere con un incessante affaccendarsi i propri sentimenti, divisi fra la disperazione e lo spasso. La signora Bennet e Kitty uscirono, e non appena si furono allontanate, il signor Collins incominciò. Mia cara signorina Elizabeth, creda pure che la sua modestia, lungi dal diminuire i suoi meriti, piuttosto si aggiunge alle sue perfezioni. Ai miei occhi lei sarebbe apparsa meno amabile se non ci fosse stato questo poco di ritrosia, ma mi permetta di rassicurarla che per questa conversazione ho il consenso della sua venerata mamma. Sullo scopo del mio discorso lei non può quasi aver dubbi. Per quanto la sua naturale delicatezza la sospinga a dissimulare, le mie attenzioni sono state troppo marcate per poter trarre in inganno. Quasi al mio primo entrare in questa casa, io l'ho eletta compagna della mia vita a venire. Ma prima di lasciarmi trasportare dai miei sentimenti al riguardo, sarebbe forse consigliabile per me che io le esponessi i motivi che ho per sposarmi, ed inoltre quelli della mia venuta nello Herefordshire, col proposito di scegliermi una sposa, come appunto ho fatto. L'idea che il signor Collins, con tutta quella sua solennità, potesse lasciarsi trasportare dai suoi sentimenti, destò in Elisabetta una tale ilarità che durante la breve pausa che egli si concedette non fu in grado di impedirgli di proseguire ed egli continuò. Le mie ragioni per ammogliarmi sono le seguenti. In primo luogo, io considero giusto che ogni ecclesiastico con una buona disponibilità di mezzi, come me, offra nella sua parrocchia l'esempio del matrimonio. Secondariamente sono convinto che ciò aggiungerà molto alla mia felicità e in terzo luogo, e forse di ciò avrei dovuto far menzione prima, questa è l'opinione personale e la raccomandazione precisa della nobilissima signora che ho l'onore di chiamare mia benefattrice. Due volte si è degnata di favorirmi della sua opinione, non richiesta per giunta a questo proposito, e soltanto sabato sera, prima della mia partenza da Hensford, fra una mano di cadriglie e l'altra, mentre la signora Jackinson accomodava lo sgabello sotto i piedi della signorina De Bourgh, ella mi disse appunto: Lei deve ammogliarsi, signor Collins. Un pastore come lei deve sposarsi. Scelga bene, scelga una gentildonna per riguardo a me e per riguardo a se stesso, faccia in modo che sia una persona attiva, operosa, senza ubbie, ma capace di far rendere bene. Una piccola entrata. Questo è il mio consiglio. Trovi una donna simile al più presto, la porti a Hensford e io sarò lieta di farle visita. Mi permetta, tra l'altro, di osservare, mia graziosa cugina, che io sono lungi dall'annoverare la considerazione e la cortesia di Lady Catherine de Bourgh tra i vantaggi di minor conto che io sono in grado di offrire. Lei troverà che le maniere di questa dama trascendono qualsiasi possibilità di descrizione. D'altronde il suo ingegno, il suo brio devono tornarle, ritengo, graditi, specialmente quando saranno temperati dal silenzio e dal rispetto che il ceto elevato della mia protettrice debbono inevitabilmente imporre. Questo sia detto per quanto riguarda in generale la mia propensione al matrimonio. Rimane ora da spiegare perché le mie mire si siano dirette su Longbourn piuttosto che sul mio proprio vicinato, dove, le posso garantire, risiedono molte amabilissime donzelle. Ma il fatto si è che, dovendo io ereditare, come erediterò questa tenuta dopo la morte del suo onorato padre, al quale auguro tuttavia di vivere ancora molti anni, non potevo ritenermi soddisfatto finché non mi fossi deciso a scegliere per moglie una delle sue figliole, in modo che la perdita possa avvenire per essere limitata al minimo quando si verificherà il triste evento. La qualcosa, tuttavia, come ho già detto, auspico non avvenga ancora per parecchi anni. Questo è stato il motivo, mia bella cugina, e mi lusingo che esso non mi farà decadere nella sua stima. Ed ora altro non mi rimane che assicurarla nel linguaggio più concitato della veemenza del mio sentimento. Sono perfettamente indifferente alla ricchezza e non farò a suo padre nessuna richiesta del genere, poiché mi rendo ben conto che non potrebbe venire soddisfatta e che 1.000 sterline al 4% che le verranno assegnate soltanto al decesso di sua madre è tutto ciò che le spetterà di diritto. Su questo punto, quindi, io manterrò il più assoluto silenzio e stia certa che nessuno rimprovero, men che generoso, uscirà mai dalle mie labbra quando saremo sposati. Era ormai assolutamente necessario interromperlo. Lei ha troppa fretta, signor mio, esclamò Elizabeth. Lei dimentica che io non le ho dato alcuna risposta. Mi permetta di farlo senza altro indugio. Accetti i miei ringraziamenti per il favore cui mi fa segno. Sono sensibilissima all'onore della sua proposta, ma mi è assolutamente impossibile far altro che declinarla. Non è cosa nuova per me, rispose il signor Collins con un ostentato gesto della mano, il constatare che le signorine hanno il vezzo di respingere le profferte dell'uomo che se si propongono segretamente di accettare, allorché egli si rivolge loro per la prima volta, e che tale rifiuto si può anche ripetere due e persino tre volte. Io non mi sento dunque per nulla scoraggiato da quanto ella mi ha detto testé e continuo a sperare di poterla ben presto condurre all'altare. In fede mia, signore, esclamò Elizabeth, la sua speranza è piuttosto fuori di luogo dopo una dichiarazione come la mia. Le garantisco che io non sono di quelle signorine, se davvero tali signorine esistono, così audaci da mettere a repentaglio la loro felicità per farsi chiedere in matrimonio una seconda volta. Io non ho affatto scherzato rifiutando. Lei non potrebbe mai farmi felice, sono persuasa di essere l'ultima donna al mondo capace di rendere felice lei. Anzi, se la sua amica Lady Catherine dovesse conoscermi, sono sicura che mi troverebbe sotto ogni aspetto inadeguata alla situazione. Se fossi sicuro che Lady Catherine la pensa così, fece molto gravemente il signor Collins, ma io non posso immaginare che sua signoria troverebbe da ridire sul suo conto. E lei può essere certa che non appena avrò l'onore di rivederla, le parlerò nei termini più elevati della sua modestia, della sua parsimonia e delle altre sue virtù. La prego, signor Collins, ogni elogio sul mio conto sarà inutile. Mi permetta di essere giudice del caso mio e mi usi la finezza di credere a quanto io le dico. Le auguro di essere molto felice e molto ricco, e nel rifiutare la sua mano io so di fare tutto quanto è in mio potere per impedire che ciò non sia. Con la proposta fatta a me, lei deve aver soddisfatto la delicatezza dei suoi sentimenti nei confronti della mia famiglia e potrà prendere possesso della tenuta di Longbourn non appena le spetterà di diritto senza farsi alcun rimprovero. La faccenda mi sembra dunque definitivamente chiarita. E alzandosi, in così dire, avrebbe lasciato la stanza se il signor Collins non le si fosse rivolto con queste parole. Quando mi procurerò l'onore di riparlarle di questo argomento, spero di ricevere una risposta più favorevole di quella che lei mi ha dato or ora, benché io sia lungi dal volerla accusare adesso di crudeltà. So che è consuetudine radicata presso il bel sesso di respingere un uomo alla sua prima istanza, e forse anche ora ella ha parlato abbastanza per incoraggiare la mia richiesta, coerente in questo alla vera delicatezza dell'animo femminile. Ma insomma, signor Collins, esclamò Elizabeth con un certo calore, lei mi sconcerta davvero. Se quanto continuato a dirle finora può sembrarle detto a mo' di incoraggiamento, non so come esprimere il mio rifiuto in modo da poterla convincere che si tratta veramente di un rifiuto. Lei Deve permettermi di lusingarmi, mia cara cugina, nel pensiero che la sua ripulsa alle mie profferte sia unicamente un'espressione verbale. Le ragioni che ho per ritenerlo sono in breve le seguenti. Non mi sembra che la mia mano sia indegna di essere accettata da lei, né che la sistemazione che io sono in grado di offrirle non sia più che altamente desiderabile. Posizioni, mi rapporti con la famiglia dei Dubourg, la mia parentela con la sua famiglia stessa sono circostanze che depongono nettamente in mio favore. E sarebbe bene che lei considerasse altresì che, nonostante le molte sue attrattive, non è affatto sicuro che mai le sarà rivolta un'altra proposta di matrimonio. La sua parte nell'eredità è sfortunatamente così esigua che con ogni verosimiglianza vorrà ad annullare l'effetto della sua bellezza e delle sue virtù. Dovendo perciò concludere che lei non può pensare sul serio a respingermi, preferisco attribuire codesto diniego al suo desiderio di accrescere in me l'amore con l'incertezza, conforme alla regola caratteristica delle donne di mondo. Le assicuro, signore, che non pretendo in alcun modo di appartenere a quella specie di bel mondo che si diletta di tormentare una persona rispettabile. Preferirei che mi fosse usata la delicatezza di considerarmi sincera. Non ho parole per ringraziarla dell'onore che mi ha fatto con la sua proposta, ma mi è assolutamente impossibile accettarla. I miei sentimenti me lo vietano sotto ogni aspetto. Come posso parlare più chiaro? Non mi consideri ora una donna elegante che intende tormentarla, ma un essere ragionevole che dice la verità dal fondo del cuore. «Sempre adorabile!» egli esclamò in tono di goffa galanteria. «Sono persuaso che, sanzionate dall'espressa volontà dei suoi ottimi genitori, le mie profferte non potranno a meno di venire accettate!» Di fronte a una tal perseveranza in un'illusione voluta, Elisabetta non seppe che risposta dare e subito si ritirò senza far motto, decisa, qualora egli avesse persistito, a vedere nelle sue reiterate ripulse un lusinghiero incoraggiamento a rivolgersi al padre, che avrebbe saputo esprimere il proprio diniego in modo tale da non lasciar dubbi, e il cui contegno almeno non avrebbe mai potuto essere scambiato per l'ostentata coquetterie di una signora di mondo. Capitolo 20. Il signor Collins non fu lasciato a lungo nella silente contemplazione dei suoi successi amorosi. La signora Bennet, che si era indugiata nel vestibolo per aspettare la fine del colloquio, non appena ebbe visto Elisabeth aprire la porta e con rapido passo avviarsi verso le scale, si precipitò nella saletta per felicitarsi con lui e con se stessa alla prospettiva della loro prossima parentela. Il signor Collins accolse e ricambiò con pari entusiasmo quelle felicitazioni e poi si mise a raccontare i particolari della loro intervista, del risultato della quale confidava di avere ogni motivo per essere soddisfatto, già che il rifiuto della sua cugina gli aveva sistematicamente opposto, derivava evidentemente dalla riservata modestia e dalla delicata purezza della sua indole. Questa notizia però mise in allarme la signora Bennet. Sarebbe stata lieta di essere altrettanto persuasa che sua figlia avesse avuto intenzione di incoraggiarlo, respingendo le sue proposte, ma non osava crederlo e non poteva fare a meno di metterlo in guardia. «Ma stia tranquillo, signor Collins», soggiunse. «Quella Lizzie sarà indotta alla ragione. E ne parlerò io subito. È una testarda, una sciocca, e non capisce qual è il suo interesse. Ma glielo farò comprendere io». «Mi scusi se la interrompo, signora», esclamò il signor Collins, «ma se davvero è una testarda, è una sciocca, mi domando se sarebbe dopo tutto una moglie così desiderabile per un uomo nella mia posizione che nello stato matrimoniale cerca come vero la felicità. Se dunque ella persiste nel respingere le mie istanze, sarà forse meglio non forzarla ad accettarmi, perché se è soggetta a simili difetti di carattere non potrà contribuire molto alla mia felicità». «Lei mi fraintende, signore», esclamò allarmata la signora Bennet. «Lizzie è cocciuta soltanto in cose di questo genere. In tutto il resto è la più buona pasta di figliola che sia mai venuta al mondo. Vado subito dal signor Bennet e accomoderemo tutto presto, vedrà». Non gli dette neppure il tempo di rispondere, ma corse subito dal marito ed entrò nella biblioteca gridando: «Oh, Bennet, c'è bisogno di te immediatamente! Siamo tutti per aria! Devi venire a costringere Lizzie a sposare il signor Collins, perché quella giura di non volerne sapere, e se tu non ti spicci, lui è capace di cambiare idea di non volerla più». Vedendola entrare, il signor Bennet aveva alzato gli occhi dal libro e li aveva fissati su di lei con un'espressione di tranquilla indifferenza, per nulla mutata dalla sua comunicazione. «Non ho il piacere di capirti», egli disse quando la moglie aveva finito il suo discorso. «Di che stai parlando?» «Del signor Collins e di Lizzie». Lizzie dichiara di non volerne sapere del signor Collins. Adesso il signor Collins comincia a dire che non vuole saperne di Lizzie. Che posso farci io in questa circostanza? Sembra una faccenda senza via d'uscita. Parlane tu stesso con Lizzie. Dille che insisti perché lo sposi. Falla chiamare giù. Sentirà la mia opinione. La signora Bennet suonò il campanello e comandò che la signorina Elizabeth fosse mandata in biblioteca. «Vieni qui, figliola», esclamò il padre quando ella comparve. «Ti ho mandata a chiamare per una faccenda importante. Mi si dice che il signor Collins ti ha fatto una proposta di matrimonio, è vero?» Elizabeth rispose di sì. «Benissimo. E tu hai respinto codesta proposta?» «Sì, signore». «Benissimo. Ora veniamo al punto. Tua madre insiste perché tu l'accetti. È vero o non è vero, signora Bennet?» «Sì, altrimenti non voglio vederla mai più!» «Una triste alternativa ti sta dinanzi, Elizabeth. D'oggi in poi tu dovrai essere un'estranea per uno dei tuoi genitori. Tua madre non vuole vederti mai più se tu non sposi il signor Collins. E io non voglio vederti mai più se tu lo sposi». E Elizabeth non poté trattenere un sorriso a siffatta conclusione di un simile inizio. Ma la signora Bennet, che si era convinta che suo marito dovesse vedere la cosa a modo suo, fu estremamente delusa. «Che cosa intendi dire, Bennet, con queste parole? Mi avevi promesso che avresti insistito per farglielo sposare». «Mia cara», le rispose il marito, «devo chiederti due piccoli piaceri. Primo, che tu mi consenta il libero uso del mio intelletto nella presente occasione, e secondo, quello della mia stanza. Sarò lieto di avere la biblioteca a mia completa disposizione al più presto possibile». Tuttavia, malgrado la delusione procuratale dal marito, la signora Bennet non era ancora disposta a cedere. Parlò e riparlò ad Elizabeth, talora carezzevole, talora minacciosa. Si sforzò di guadagnare Jane dalla sua, ma Jane, con tutta la dolcezza possibile, rifiutò di intromettersi. Ed Elizabeth rispose ai suoi attacchi ora con grande serietà, ora con scherzosa allegria. Variava l'atteggiamento, ma la decisione non mutava mai. Frattanto il signor Collins stava meditando in solitudine sull'accaduto. Aveva una troppo alta opinione di sé per comprendere che motivo potesse avere sua cugina per rifiutarlo, ma sebbene fosse stato leso nell'orgoglio, non soffriva in altro modo. Il suo sentimento per lei era del tutto immaginario e la possibilità che la meritasse davvero il rimprovero della madre gli impediva di provare alcun rimpianto. Mentre la famiglia era così sottosopra, Charlotte Lucas venne per passare la giornata con le amiche. In anticamera le andò incontro correndo Lydia, che esclamò in mezzo bisbiglio: «Sono contenta che tu sia venuta, perché qui ci stiamo divertendo. Cosa credi che sia capitato stamani? Il signor Collins ha fatto una proposta di matrimonio a Lizzie e lei non lo vuole». Charlotte non ebbe quasi il tempo di rispondere che furono raggiunte da Catherine, venuta per raccontare le stesse novità, e non erano nemmeno entrate nel tinello dove la signora Bennet si trovava sola, che anche lei cominciò con lo stesso argomento, sollecitando la compassione della signorina Lucas e supplicandola di persuadere la sua amica Lizzie ad agire secondo il desiderio di tutta la famiglia. «La prego, lo faccia lei, mia cara signorina Lucas», soggiunse in tono lacrimoso. «Nessuno tiene dalla mia parte, nessuno è con me. Sono tremendamente maltrattata. Nessuna pietà dei miei poveri nervi». La risposta di Charlotte fu risparmiata dall'ingresso di Jane ed Elizabeth. «Già, eccola qui che viene», continuò la signora Bennet, «indifferente al massimo grado e non più preoccupata per noi che se stessimo a York, pur di fare di testa sua. Ma mi stia bene a sentire, signorina Lizzie. Se lei si mette in testa di continuare a respingere ogni proposta di matrimonio a questa maniera, marito non lo troverà più e io non so di sicuro chi potrà mantenerti quando tuo padre sarà morto. Io non ne sarò certo in grado e quindi ti avverto. D'oggi non ho più nulla a che fare con te. Te l'ho detto giù in biblioteca, te ne ricordi? Che non ti avrei più rivolto la parola e vedrai se non manterrò la promessa». Non mi fa nessun piacere parlare a delle figliole disobbedienti. Non che mi rallegri molto, del resto, parlare a chi che sia. Chi, come me, soffre di nervi, non ha gran voglia di far conversazione. Nessuno sa quel che soffro. Ma è sempre così. Quelli che non si lamentano non sono compatiti. Le figlie ascoltarono quello sfogo in silenzio, consce che ogni tentativo di farla ragionare o di confortarla non avrebbe fatto che aumentare la sua irritazione. Ella continuò dunque a parlare, senza che nessuno tentasse di interromperla, finché furono raggiunte dal signor Collins, il quale entrò con un'aria più solenne del consueto. Vedendolo, la madre disse alle ragazze: «Ora badate bene. Voglio che siate tutte zitte e che mi lasciate fare due chiacchiere assieme al signor Collins». Elizabeth uscì in silenzio dalla stanza, seguita da Jane e Catherine, ma Lydia rimase sul campo, risoluta a stare a sentire tutto quel che poteva. E Charlotte, trattenuta prima dalla cortesia del signor Collins, che si informò minutamente sul suo conto e dell'intera sua famiglia, e poi da un tantino di curiosità, si accontentò di avvicinarsi alla finestra fingendo di non ascoltare. Con voce dolente, la signora Bennet così principiò la progettata conversazione. «Ah, signor Collins, mia cara signora», egli le rispose, «non parliamo mai più di questo argomento, lungi da me ogni risentimento per il contegno della sua figliola. È dovere di noi tutti rassegnarci ai mali inevitabili, è dovere speciale di un giovane che sia stato come me tanto fortunato da ottenere un rapido avanzamento. E io ho la certezza di essere rassegnato. E questa rassegnazione forse non è meno da scriversi al fatto dell'avere io stesso potuto dubitare della mia effettiva felicità se la mia bella cugina mi avesse fatto l'onore della sua mano. Già che mi è stato dato sovente di osservare che la rassegnazione non è mai così perfetta come quando la grazia negata comincia a perdere alcun poco del suo valore nel nostro concetto. Lei non vorrà, spero, considerare che ho mancato in qualche modo di rispettare la sua famiglia, mia cara signora, né ritirare le mie pretese per il favore di sua figlia, senza aver reso a lei e al signor Bennet l'omaggio di chieder loro di interporre la loro autorità a mio favore. Temo che il mio contegno possa venir giudicato riprovevole per aver accettato il mio commiato dalle labbra di sua figlia invece che dalle loro. Ma siamo tutti soggetti ad errare. Questa faccenda, le mie intenzioni sono state indubbiamente buone. Il mio scopo era quello di assicurarmi un'amabile compagna con la dovuta considerazione al vantaggio della loro famiglia. E se il mio comportamento è stato in qualche modo reprensibile, sono qui ora per presentare le mie scuse».